contro una sporca guerra si sono opposti. Non sono stati capaci di ammazzare un'altra persona, che ha un'arma in mano di sicuro non ragiona e non avranno mai nessuna medaglia. Non hanno partecipato a nessuna sporca battaglia. Ora i disertori, persone valorose, in mezzo a tutti i soldati, le uniche persone che vogliono i disertori, che mai hanno ammazzato chi come loro non voleva essere un soldato. Ora i disertori, persone valorose, in mezzo a tutti i soldati, le uniche persone che vogliono i disertori, che mai hanno ammazzato chi come loro non voleva essere un soldato. Hanno servito la patria, non hanno servito lo Stato. Chi veniva beccato, chi veniva torturato. Non avevano una divisa e ne erano fieri. Con tutti gli esaltati ci stavano ma volentieri. La giovinezza passata a scappare come criminali, perché non hanno credito a comandanti o generali. Onore ai disertori, unici uomini sani, senza miei vive, unici esseri umani. Onore a tutti gli antimilitaristi, sono solo loro i veri pacifisti. Onore ai disertori, unici uomini sani, senza miei vive, unici esseri umani. Onore a tutti gli antimilitaristi, sono solo loro i veri pacifisti. Non ha confini e non ha bandiere, per i renitenti si spalancano le galere. Sono solo loro i buoni, dalla parte giusta, contro il male e tutto ciò che ti disgusta. Con il fucile c'è chi si crede superiore, all'ero saggio è solo il disertore. Onore ai disertori, dei ribelli disobbedienti, i soldati alla fine sono tutti perdenti. Chi ha rifiutato il tuo pantere nero e dimenticato tanti sconosciuti senza funerali di stato. Onore ai disertori, dei ribelli disobbedienti, i soldati alla fine sono tutti perdenti. Chi ha rifiutato il tuo pantere nero e dimenticato tanti sconosciuti senza funerali di stato.